Questa mattina Dio ci sfida. Ci sfiderà anche parecchio. La prima canzone, che poi ricanteremo immagino alla fine, quella bella Zumbe Zumbe, dice delle parole che a volte noi cantiamo, ma forse a me piace fare questa analisi dei testi delle canzoni che cantiamo, perché là stiamo proferendo in fede cose grandi e a volte neanche ci rendiamo conto. E vedrete che quel testo usa un verbo a un certo punto, rischiare. Oggi Dio ci chiama a rischiare, con la possibilità, non di cadere, no, però di farci, che prima di tentare alla cosa forse un po' ci spaventa, però dobbiamo rischiare se vogliamo andare avanti. Io come sempre parto da esempi pratici, quelli concreti, e gli esempi più pratici che io ho a mia disposizione sono i bambini. Adesso, dico anche io una bella notizia, sto lavorando da 2 settimane e sto lavorando con degli preadolescenti e adolescenti che vivo a stretto contatto con loro, quindi passo 7-8 ore con loro, e ho visto che sono peggio dei bambini. Allora, Dio, tu proprio mi chiami a sviluppare pazienza, ma a imparare da loro. Sono curiosi, bambini, adolescenti sono curiosi. Quando da piccolini, se vi ricordate, forse non vi ricordate l'episodio, ma vi ricordate il dolore, qualcuno vi ha detto non mettere il dito sulla candela o non mettere il dito vicino al fuoco perché ti bruci, il dito noi l'abbiamo messo, eravamo curiosi di capire che cosa significa mi brucio, il dito l'abbiamo messo, ci siamo bruciati e abbiamo capito che il fuoco brucia. Però la curiosità c'era di volerlo toccare, nonostante ci avessero detto che non dovevamo toccarlo. Ma la curiosità non produce soltanto conseguenze negative, anzi, i bambini nel loro processo di crescita fanno della curiosità lo strumento principale per poter imparare. Per esperienza, quindi loro sono curiosi, io devo capire che cosa è quello, se è buono o se non è buono, se posso o se non posso, se sono capace o se non sono capace, per curiosità vanno a provare e per esperienza imparano. Questo per esperienza è una parola che rientra anche nella Bibbia, ricordatevi, ci sono dei versi che per esperienza, ma non è di questo che parleremo. Crescendo però abbiamo imparato che la curiosità a volte ci crea dei problemi, specie da adulti quando c'è un peccato curioso, anche lì la curiosità rientra. Ma voglio vedere io fino a che punto riesco a resistere. Non parleremo di questa curiosità oggi, ma parleremo della curiosità, quella buona, che ci porta a crescere. Perché noi vogliamo crescere, e non si può crescere restando fermi ad un punto. E restare fermi è mancare di curiosità. Vi leggo questa frase di Einstein, che tanto ha fatto, ma ha anche detto tante cose belle. Chi non è più in grado di provare né stupore né sorpresa è per così dire morto, i suoi occhi sono spenti. Immaginate lo sguardo di una persona indifferente, apatica. Come sono i suoi occhi? Morti. Immaginate lo sguardo di una persona che è stata sorpresa da qualcosa in positivo, è entusiasmante, è brillante, c'è un luccichio. Noi a quel luccichio questa mattina vogliamo guardare, ai nostri occhi, che dal primo giorno che abbiamo incontrato Gesù hanno incominciato a brillare di una luce nuova. E quella luce deve continuare a brillare, non deve fermarsi, anzi deve diventare sempre più folgorante per chi ci guarda, ma anche per noi stessi. È importante che ci rendiamo conto che con Gesù non abbiamo ancora finito, con Dio abbiamo appena iniziato. E vogliamo andare avanti? Perfetto, il titolo di questa mattina è Sii curioso con Dio, non ti fermare. Nella Bibbia si racconta di un episodio di un certo tipo, una storia conosciutissima, che è stato estremamente curioso e ha fatto qualcosa di pregiudizievole per la sua reputazione. Era un uomo distinto, aveva una cattiva fama perché un po' imbroglione, un po' facile ad essere corrotto, però comunque era una persona che aveva una carica ufficiale per il governo romano. Era Zaccheo e la sua storia dice così. Luca 19:1-10. Poi Gesù, entrato in Gerico, l'attraversava ed ecco un uomo chiamato Zaccheo, il quale era il capo dei pubblicani ed era ricco. Egli cercava di vedere chi fosse Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e salì su un sicomoro per vederlo, perché egli doveva passare di là. E quando Gesù arrivò in quel luogo, alzò gli occhi, lo vide e gli disse: Zaccheo, scendi giù subito, perché oggi devo fermarmi in casa tua. Ed egli scese in fretta e lo ricevette con gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano dicendo: egli è andato ad alloggiare in casa di un uomo peccatore. Ma Zaccheo si alzò e disse al Signore: Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho defraudato qualcuno di qualcosa, gli restituirò 4 volte tanto. E Gesù gli disse: oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche costui è figlio di Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Un uomo di una certa dignità, di una certa posizione sociale, che decide di salire su un albero. I bambini salgono sugli alberi, non un pubblicano. Ma lui aveva sentito qualcosa di Gesù. Poco prima Gesù aveva fatto un miracolo fuori da Gerico, aveva guarito un cieco. Quindi sicuramente questa notizia sarà subito arrivata in chiesa, avrà preceduto Gesù. Di Gesù già si conosceva anche tanto, quindi Zaccheo era curioso. Se non fosse stato curioso, io ho riscritto la storia. Non si può fare tanto questa cosa con la parola di Dio, però io l'ho riscritta in questa maniera. Cioè, uno Zaccheo non curioso. Gesù, entrato in Gerico, l'attraversava. Ed ecco un uomo chiamato Zaccheo che cercava di vedere chi fosse questo Gesù di cui tanto si vociferava. Ma c'era tanta gente e non riusciva a vederlo. Poteva, tra l'altro, uno del suo rango, buttarsi tra quella gente e poi a dirla tutta. Gesù sembrerebbe che fosse il figlio di quello stesso Dio che lo avrebbe creato basso. Quindi la colpa, alla fine, è pure di Dio. Se per lui non c'era modo di poter incontrare Gesù, non c'era altro da fare che continuare a riscuotere le tasse. Questa sì che è una cosa seria. Se Zaccheo non fosse stato curioso, la sua vita sarebbe continuata, probabilmente ci sarebbe stata una seconda possibilità, ma io devo comunque considerare che forse lui avrebbe perso la vera, reale occasione per poter conoscere Gesù e per poter vedere la sua vita cambiata. Ma Zaccheo, per curiosità, è salito su quell'albero e ha potuto incrociare lo sguardo di Gesù ed è rimasto stupito la prima volta nel momento in cui Gesù lo guarda e si autoinvita a casa sua, a casa di un peccatore malfattore. Lui sapeva, la sua coscienza parlava molto forte dentro di lui, chi lui fosse realmente. E il stupore maggiore, meraviglia più grande, nel momento in cui nel suo cuore qualcosa cambia. Un cambiamento totale della vita di questo uomo che lo porta a fare delle confessioni molto importanti. Io do le mie ricchezze, io restituisco 4 volte tanto, ma soprattutto è una vita salvata. È una vita che ha trovato l'essenza reale del suo esistere in Gesù Cristo. Zaccheo aveva 3 possibili motivi per poter dire: a me di Gesù non interessa. 1, la sua posizione sociale. 2, la sua ricchezza. Era una vita stabile, certa, senza problemi. Tutti vorrebbero essere ricchi, perché si pensa che con la ricchezza si risolvono i problemi. 3, la statura. Lui era basso, però per statura possiamo, come dire, comprendere tutte quelle caratteristiche fisiche o caratteriali che ci impediscono di poter dire: vabbè, sì Gesù, sì Dio, ma ci sono caratteristiche e motivazioni sociali, caratteristiche e motivazioni di lavoro, di professione, di identità, ci sono caratteristiche e peculiarità proprie della persona che a volte si alzano a limiti, a muri fra me e Dio. Per quanto possono essere validi questi motivi, io dico non hanno assolutamente la possibilità di potersi paragonare all'importanza di poter conoscere realmente Dio. Chiesa, credo che Dio ci voglia dire semplicemente questo stamattina. È tempo, è giunto il tempo, di cercare Dio con rinnovata curiosità. Osea, a un certo punto, scrive questo verso. Allora, è un po' forte questo verso. Però, ora lo capiamo, io non voglio che nessuno si senta, come dire, condannato. Osea, capitolo 10, i versi 12 e 13. So che in regia io ho saltato qualcosa, non preoccupatevi. Seguitemi, è tutto free, quindi seguitemi. Ci sono i versi? Sì. Seminate per voi secondo giustizia, Mietete secondo misericordia, dissodate il vostro campo non coltivato, perché è tempo di cercare l'Eterno finché egli venga e faccia piovere su di voi la giustizia. Voi avete arato la malvagità, avete mietuto l'iniquità, avete mangiato il frutto della menzogna, poiché hai confidato nella tua via, nella moltitudine dei tuoi prodi. Osea sta parlando al popolo di Israele, un popolo che ben conosceva Dio. Osea, in questo momento, Dio tramite Osea, in questo momento sta parlando a me, Luigi, un uomo che ben conosce Dio, o perlomeno dico di ben conoscere Dio. Eppure Osea dice, guarda che è giunto per te il tempo di tornare a dissodare il terreno, perché a un certo punto ti sei fatto forte delle tue forze, ti sei fatto forte dei tuoi pensieri, della tua via, e il rischio è non prendere più ottimi frutti di benedizione, ma da quel terreno incominciare a prendere menzogna nei nostri confronti stessi. Probabilmente malvagità, io spero che nessuno arrivi ad essere malvagio con qualcun altro, abbiamo stamattina dimostrato amore l'uno nei confronti dell'altro, però rendiamoci conto che quando cominciamo a pensare con la nostra testa, arriva il rancore molto spesso, e il rancore ci porta a pensare male dell'altro. Quando incomincio a pensare per la mia via, incomincio a pensare solo e soltanto al mio interesse, perché devo tutelare me. E questo non è l'amore di cui parla Dio nella Bibbia. Tutto perché semplicemente ho incominciato a pensare e a seguire una mia via, che è comunque una via giusta. La tua vita è comunque una bella vita, la mia vita è una vita fantastica, ma che cosa potrebbe essere la mia vita? Non sono curioso un tantino di capire cosa potrebbe essere la mia vita se ritornassi a dissodare il mio terreno, il terreno del mio cuore. Un terreno che a un certo punto diventa un po' secco in superficie, un po' più duro, incominciano a nascere delle spine, delle erbacce e non più quei bei frutti di benedizione che la parola mi dice. E dico, e perché la mia vita va così? Io conosco Dio, io vado in chiesa, io amo i fratelli e poi la mia vita è sempre la stessa, non cambia mai nulla. Perché probabilmente le cose di ogni giorno ci hanno impedito di prenderci cura del nostro cuore. O meglio, hanno impedito a noi di poter andare da Dio, cercarlo con curiosità e permettere che Lui possa lavorare dentro di noi. Dio lo conosciamo, la Bibbia la leggiamo, in chiesa veniamo. Ma se siamo umani, purtroppo siamo umani, se l'amore, se la conoscenza, sono tutti una stessa categoria, facciamo così, se l'amore, se la conoscenza, se l'intelligenza, se tutte le forme di sentimenti affettivi non vengono alimentati, a un certo punto si fossilizzano, rimangono lì a un certo stato. Il fossile esiste, ma è privo di vita. È qualcosa che si è spento. C'è, ma è spento. La mia conoscenza di Dio si spegne se io non la vado ad alimentare. L'intelligenza mentale si spegne se non la stimoliamo. Le tabelline ce le dimentichiamo se per anni noi andiamo a ripeterle. Storia e geografia, dopo che l'abbiamo studiata a scuola e non l'abbiamo mai più ripresa, l'abbiamo completamente dimenticata. Ci ricordiamo invece le cose che andiamo a riprendere e rinnoviamo con curiosità. Perché anche questo è molto importante, è la curiosità che gioca un ruolo fondamentale. Io non avevo mai pensato a questa cosa. Quando Dio me l'ha detta, wow. Cioè, essere curiosi con Dio vale la pena. Può costare un tantino di impegno. Dissodare un terreno non è un lavoro facile, è un lavoro faticoso. Spogliarsi dei propri standard, dei propri formalismi, dei propri preconcetti è dura. Non è facile, non sto dicendo che è un giochetto, potrebbe sembrare un gioco, ma non è un gioco. Però la sfida che Dio ci lancia è questa. Vuoi essere curioso? Vuoi conoscere maggiormente di me, dice Dio? Vuoi capire cosa c'è di più per te? È come se avessimo qui un bellissimo scatolone, immaginatelo, con su scritto Dio. A voi verrebbe la curiosità di capire cosa c'è in quella scatola? dato che c'è scritto Dio su questa scatola, non è che troviamo Dio dentro, un bambino correrebbe improvvisamente sul palco ad aprire lo scatolo. Un adulto direbbe, ma io non posso andare ad aprire adesso lo scatolo, sta Luigi. E che deve dire il pastore Mirko? Guarda quello, sta sul palco, l'ha ad aprire lo scatolo, non poteva aspettare 10 minuti dopo che finiva tutto. Siamo adulti. E capisco l'educazione, capisco i limiti che dobbiamo pur porci, ma con Dio non ci sono limiti. Siamo noi che ci poniamo i limiti con Dio. La mano così la posso alzare. Di più, no, perché poi si vede la macchia di sudore. In ginocchio nella cameretta. Così siamo io e Dio, e ci mettiamo in ginocchio, io e Lui, e nessuno se ne è accorto. Fare un giro? No, ma che, per Dio. In chiesa. E metti quando giro, gli do uno schiaffo, che so, a Noemi, che mi stava a fianco. No, lo faccio nella mia cameretta. Io nella mia cameretta giro, non sto scherzando. Una volta mi hanno visto, poi è stato molto bello, non ero in Albania. Hanno aperto la porta, io non avevo chiuso, e stavo girando così. E poi, però questa persona è rimasta fortemente impattata da questo mio modo di adorare Dio. E quella persona ha incominciato a danzare per Dio. Quindi dico, posso dire, sembravo uno stupido in quel momento. Ma il mio essere curioso nel sperimentare cosa può significare lodare Dio ha portato benedizioni a me. Perché io mi sento abbastanza libero. So che posso liberarmi ancora di più, ma mi sento abbastanza libero quando adoro Dio. Però so che potrebbe essere di sfida per qualcun altro. Qualcun altro mi dirà pure, ma che sta facendo? Io con i bambini sono quello che salta di più. Ora arriva l'estate, sono quello che suda di più. I bambini dicono, zio, asciugati il sudore. Io ho sempre l'asciugamano, che... perché proprio mi vedo. C'è Ilaria, sì, Ilaria mi ha visto parecchie volte con i bimbi e insomma mi ha visto come mi bagno, proprio, è una cosa assurda. Ma lo farei anche qui, solo che non ci abbiamo salta salta, gira gira. Se lo proponiamo che volta io lo faccio. Non fermiamoci al punto in cui siamo arrivati nel conoscere Gesù, nel conoscerlo, nell'amarlo. Perché dobbiamo conoscere Dio? Perché se non lo conosciamo, come facciamo a creare una relazione autentica con Lui? Io devo poter, diciamo sempre, poter passare del tempo con Dio. Ecco perché lo devo cercare. Ma se lo cerco sempre nella mia solita posizione, quando leggo la Bibbia io sono così. Allora, ho la sedia, quella girevole da boss, di pelle nera, solo quello, cioè, da boss. Allora, sono un po' così a tre quarti, la scrivania qua, a tre quarti qua, il braccio qua, la Bibbia là. Questa è la mia posizione, con le gambe anche messe così, una gamba sotto e una gamba appesa. Non lo so perché, leggo così, da boss. Allora, mi sono reso conto, ma perché sempre leggere la Bibbia in questa maniera? Sapete come leggo la Bibbia a volte? Che è una cosa che faccio quando sono a mare e leggo un libro. Ho pubblicato anche una foto su Pinterest, ho scritto, come non sono l'unico, faccio questa cosa quando sono a mare. La devo far vedere. Perché scusatemi se faccio il pagliaccio, però per farvi capire come sto leggendo la Bibbia ora. Siccome quando si è a mare c'è il sole, quindi non riesci a leggere un libro, se si faccia al sole sdraiato, perché devi comunque prendere il sole in quel momento, non è che puoi perdere tempo a leggere il libro, l'ombrellone non esiste, ragazzi. Chi mi conosce lo sa bene. Allora, io leggo la Bibbia ora così, perché così leggo a mare i libri. Così mi copro gli occhi e il sole non mi va, quindi posso prendere il sole. Sto leggendo la Bibbia in questa maniera. Perché sto facendo questa cosa? Perché io devo capire che non devo abituarmi con Dio. L'abitudine serve ad altre cose. L'abitudine serve a stabilire i tempi lavorativi, i tempi di studio, i tempi in cui si pranza e dove non si pranza. Sane abitudini. Ma con Dio l'abitudine è morte. Perché Lui non è abitudinario. Immaginate se Dio dovesse fare sempre le stesse cose. Bah, che noia. Immaginate se qui fosse predicato ogni domenica lo stesso messaggio, perché Dio non vuole ispirare il predicatore con un messaggio nuovo. Vi rendete conto? Io non so quante migliaia di messaggi, di predicazioni saranno state fatte in questa chiesa, e immaginiamo nel mondo, e pensare che la fonte di ispirazione è Dio, e Lui non ha ancora finito con tutta la sua immensa saggezza. Perché dovrei io limitare il tutto, la mia esperienza con Dio, si fa così. Quindi stamattina ci hai richiesto di salire su un albero. Zacchia è salito su un albero. A noi è richiesta la stessissima cosa. Devo bere. Tre alberi a nostra disposizione, che sono gli alberi quelli più belli che ci potrebbero essere. Poi tu puoi conoscere anche il tuo albero personale, e quindi forse Dio ti sta invitando a salire su un albero in maniera specifica. Ma io voglio fornirti, Dio ci vuole fornire tre alberi molto, molto solidi, sono querce, secolari. La parola di Dio, il primo albero. Salmo 119, è un salmo enorme, perché così doveva essere, dato che parla della parola di Dio e doveva essere completo e totale. Io vi invito a leggerlo e ad evidenziare, mentre lo leggete, tutti i benefici che la parola di Dio producono nel momento in cui ci avviciniamo a lei, la osserviamo, la leggiamo con passione. Ho un piccolo elenco. Avvicinarsi, meditare, osservare la parola di Dio produce consiglio, forza, si viene vivificati, dà conforto nell'afflizione, dona discernimento, conoscenza, dà intelligenza, è una lampada che dà rivelazione, dona pace, gioia e stabilità a coloro che la amano. E ci sono tante altre cose in questo salmo. La parola di Dio è questo. E tutto questo e ancora di più. Non è questa vita, come l'ho descritta così, con tutte queste caratteristiche, la vita che tutti noi vorremmo? Credo di sì. E allora, perché non prendiamo la parola di Dio e non la viviamo come Dio stesso ci insegna attraverso la sua parola? Ce la dobbiamo mangiare, ce ne dobbiamo appropriare. Non è un libro, come i libri che leggo in spiaggia. Io posso leggere questa Bibbia come fosse un bellissimo libro. Ed è un bellissimo libro, ben scritto, con un italiano anche abbastanza ricercato. Mi piace. Sto rileggendo 1 Samuele e 2 Samuele. Per non so quante volte l'ho già letto, ma per dire che questa cosa non mi importa. E quando l'ho riletta questa volta, mi sono rimbalzati agli occhi cose che in passato non erano mai uscite fuori. Perché? Perché la parola di Dio non è monotona. Nel momento in cui io mi avvicino alla parola di Dio, oggi sono una persona, fra 2-3 mesi sarò un'altra persona, il mio bisogno sarà un altro, le mie esperienze saranno cambiate. La parola di Dio si adatta a me. È assurda questa cosa. È una parola multiforme, è un rema. Non è il logos, parola scritta, stampata. È un rema, è una parola viva, che essendo vivente cambia, si trasforma. Ciò che è scritto è sempre lo stesso, non sono le parole che cambiano, ma il messaggio che Dio dà a me, la rivelazione che Lui dà a me, cambia sulla base di quello che io sono, sulla base di quello che sto vivendo, sulla base di quello che Dio vuole dirmi. Quando ti avvicini alla parola di Dio, non ti avvicinare più come albero, parola di Dio, e ti appoggi all'albero così. Sali sull'albero. Vai oltre il tuo modo di leggere la Bibbia, vai oltre il tuo modo di fare. Può essere molto pratica questa cosa, può riguardare la tua attitudine di cuore, ma avviciniamoci alla parola di Dio con una rinnovata curiosità. Secondo albero, la preghiera. Abbiamo sentito qualche settimana fa una predicazione portata da Noemi sulla preghiera, la parabola del giudice iniquo, e lì Dio ci ha insegnato qualcosa di molto molto specifico. Amico bello, figlio bello, ricordati che tu non sei il giudice, sei la vedova. Ma quella vedova, in tutta la sua umiltà, ha avuto una caratteristica. È stata perseverante, martellante. E il pastore Mirko, in questo periodo, ci sta portando a riflettere sull'identità della nostra fede in Dio. Quando preghi, preghi con umiltà, cercando la volontà del Padre. Ma nello stesso tempo essere umili non significa essere deboli. Sii perseverante. Luca 11, 9, 10 sono quei versi che tanto ci piace, nominare, ridire, papà, cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto. Com'è? Blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim. E cosa sta dicendo? Sta dicendo proprio questa cosa. Non ti stancare, sii ancora più curioso. Osa di più nella preghiera. Non porre i limiti. Perché quando noi poniamo i limiti, quando preghiamo, noi poniamo dei limiti, e sono i limiti umani che stiamo ponendo, cioè i limiti dell'ovvio, e può essere Dio eterno, ovvio. Sali sull'albero chiamato preghiera, scopri nuove forme di preghiera, compra libri sulla preghiera, c'è gente che sa più di noi, al riguardo e lo vuole condividere. Non sono manuali, ma ti fanno capire che ci sono delle frontiere della preghiera che noi non abbiamo ancora sperimentato. E perché accontentarsi se c'è di più? Terzo albero, gli altri. Ho condiviso un po' di tempo fa all'interno della squadra, la squadra dei settori, questa frase che ho voluto, che secondo me è ritornata poi anche bene in questa predicazione. È un certo Bernard de Chartre che dice, è nota in ambito accademico, siamo come nani sulle spalle di giganti, così che possiamo vedere più cose di loro e più lontano, non certo per l'altezza del nostro corpo, ma perché siamo sollevati e portati in alto dalla statura dei giganti. È un po' come Zaccheo praticamente. Lui non poteva vedere più in alto perché era piccolo. Io sono piccolino e vedo fino a un certo punto, ma posso vedere più in alto se salgo sulle vostre spalle. E grazie alla vostra esperienza, e grazie alla vostra fede, e grazie alla vostra testimonianza che io posso vedere oltre. Io penso a Graziella, perché mamma e Graziella, insomma, si vedono molto spesso per la preghiera, ma io ricordo Graziella, i miei primi ricordi della chiesa risalgono a 6-7 anni, però ero già da prima in chiesa. Quindi ho 30 anni di ricordi di chiesa. E ho visto la chiesa nel bello e nel brutto, crescere, poi un po' scendere, cambiare e restare statica. E in tutta questa storia io vedo Graziella, lì ferma, a far cosa? A fare di tutto. Io la ricordo a cucinare, a far servizio, a stare con i bambini, insomma, ha fatto di tutto, ma principalmente ha pregato. Ho sbagliato, sta pregando. Non è che ha pregato e ora dice, 54 anni di matrimonio, non so l'età che ha Graziella, posso stare un po' tranquilla a casa. No, lei continua a pregare, hanno incontri di preghiera a casa. E la cosa che mi piace è che quando trovo un libro bello, lo passa. Ehi, devi leggere questo libro sull'intercessione. Ehi, devi leggere questo libro sulla missione, che è importante. Una donna della sua età, una donna che ha vissuto un certo periodo anche culturale, credo che difficilmente si predispone a leggere libri. Ma lei ha capito che quella non si tratta di una lettura per passar tempo, perché non ha nulla da fare durante la giornata. Sa che leggere quei libri la formano, la incoraggiano, le permettono di vedere più lontano della sua cucina, del suo salotto, che può essere il predicatore più grande al mondo, che può essere Luigi, che non è un predicatore. Entrambi gli esempi possono essere validi per qualcuno, possono essere un gigante sul quale salire. Vi prego, salite sulle mie spalle affinché voi possiate vedere più lontano di quello che io vedo. Questo è il mio desiderio. Io quando penso ai bambini, quando penso agli adolescenti, perché comunque sono più a contatto con loro, io penso, voglio che loro possano già oggi guardare più lontano di quello che io vedo. E questo è il desiderio di Dio. Dio desidera questo per la sua Chiesa. Ecco perché ci ha dato anche la sua parola. Esempi eclatanti di uomini grandi, giganti, sui quali poter salire, dai quali poter prendere esempio, dai quali farsi ispirare. Se Mosè ha potuto aprire il Mar Rosso, che non è un mare grandissimo, vorrei provare ad aprire l'Oceano Atlantico, se Dio me lo chiede. Perché no? Questo è essere curiosi con Dio. C'è una scatola con su scritto Dio. Stamattina apri quella scatola e scopri, lasciati meravigliare, lasciati incuriosire da Dio. Scopri la bellezza di amarlo di un amore rinnovato. Non è dello stesso amore di cui lo amavi, no, è un amore rinnovato, è una conoscenza rinnovata, perché Dio, per quanto immutabile è, lo abbiamo conosciuto in parte, conosciamo un lato del suo essere Dio. Ci basta forse fare un passo e cambiare una prospettiva e vedere un'altra forma di Dio, un'altra rivelazione di Dio, profonda, vitale per noi in questo momento. Puoi essere giovane nella fede, puoi essere super maturo nella fede, puoi essere in questa chiesa da un mese, puoi essere in questa chiesa da 40 anni. Vale per chiunque. Sii curioso con Dio. proprio come il giorno in cui hai detto, beh, quasi quasi prova a credere in lui. Eri curioso quel giorno, non sapevi neanche cosa ti aspettasse, ma hai scelto. La stessa curiosità che quindi ben conosci, puoi riattivare con Dio. Ed è importante che lo facciamo, perché lì scopriamo la bellezza di poter vivere Dio costantemente come la cosa, perché tale è, più entusiasmante, più vivificante, più motivante che c'è. Vi sfido a darmi, perché se ce l'avete me lo dovete dare, un altro motivo più importante di poter vivere una vita per Dio. Non ce ne stanno. Io ho provato a cercare. Non ce ne sta. Tutte cose buone, non cose brutte, anche le cose buone non riescono a mantenere il paragone con Dio. E perché quindi limitarmi nella conoscenza di Lui? Credo fermamente che Osea, quando poi ha detto, Osea 4, voglio dare riferimento, no, bugia, Osea 3, verso 3, Osea 6, verso 3, a un certo punto lui dice, sforziamoci di conoscere Dio. Non ha detto, se vogliamo. Sforziamoci. E che significa? Che io ci devo mettere impegno. Che significa? Che non è che qualcosa che mi cade addosso, no, lo devo cercare. Salire su un albero richiede un po' di forza e agilità, uno sforzo. A noi è chiesto uno sforzo diverso da quello fisico, ma è comunque uno sforzo. Sforziamoci di conoscere Dio, perché in fin dei conti questo è il fulcro di tutto. Poco si parla della vita eterna nella Bibbia, ma quando a un certo punto se ne parla, Giovanni 17,3, viene detto questa cosa. Or questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo, che tu hai mandato. La vita eterna è conoscere Dio, la vita eterna è riconoscere Gesù come il Figlio di Dio. Questa è la vita eterna. E noi l'abbiamo presa, perché l'abbiamo conosciuti. Ma l'eternità è eternità, non ha un limite, non è finita. E quindi non smettiamo noi di cercare Dio, non smettiamo noi di conoscerlo, non smettiamo noi di innamorarci, non smettiamo noi di desiderare di più. Quel di più è pronto, è nella scatola. Vai, apri la scatola e guarda che cosa c'è dentro. Quello è per te. Preghiamo un attimo. Signore Gesù, grazie. Grazie perché ti sei rivelato, grazie perché hai pienamente dimostrato quanto amore il Padre aveva per noi, dandoti, morendo sulla croce, sacrificandoti per poterci portare a conoscere Dio, per poterci portare a ricevere la vita eterna, per poterci portare a vivere la vera vita. E io ti ringrazio per questa rivelazione alta, profonda che tu ci hai dato. Ma noi insieme come chiesa, insieme come famiglia, questa mattina siamo qui a dirti sì, noi vogliamo conoscerti di più, noi vogliamo cercare il tuo sguardo, non importa cosa ci viene richiesto, non importa la nostra reputazione, non importa il nostro pensiero, il nostro modo di essere e di fare, noi vogliamo andare oltre tutti i limiti e incontrarti. Abbassiamo in questo momento, Signore Gesù, le nostre difese, abbassiamo in questo momento i nostri punti di vista davanti a te. Vogliamo solo incrociare il tuo sguardo, sapendo che nel momento in cui ti guardiamo abbiamo la rivelazione più alta e buona che potremo mai avere per noi stessi di te. Io prego, Padre, per i cuori delle persone qui presenti, che possono essere cuori che si fanno ammorbidire da te, che sono cuori che possano farsi annaffiare nuovamente dalla tua parola, dalla presenza del tuo Santo Spirito, da un amore rinnovato per te, e che le nostre vite, per quanti buoni frutti hanno portato, possano incominciare a dare nuove primizie. Una nuova primavera per i nostri cuori, un nuovo raccolto, frutti di benedizione, di incoraggiamento, di guarigione, di liberazione sulle nostre vite. Questo è quello che tu vuoi donarci? E semplicemente ci hai detto: cercatemi. E noi ti vogliamo cercare, vogliamo cercarti con tutto noi stessi, vogliamo cercarti con la nostra forza, con il nostro pensiero, con il nostro corpo, con i nostri sentimenti. E dove non sappiamo ancora come fare, dove possiamo arrivare, ti prego, dacci una spinta, facci cadere, facci andare ancora oltre quei limiti che potrebbero tenerci fermi, perché vogliamo conoscerti in una maniera totale, in una maniera globale. E grazie, perché siamo chiamati a questi, perché l'eternità è questa, conoscere te in una maniera completa. Ma oggi ci dai nuova rivelazione di chi tu sei. Ammaestraci, guidaci e dacci il coraggio di poter salire su quell'albero e poter vedere ancora oltre e poter incrociare di nuovamente il tuo sguardo e innamorarci appassionatamente di più e ancora di più di te. Ti amiamo Dio, non possiamo stare senza di te, non vogliamo stare senza di te. E grazie, grazie perché tu ripaghi in una maniera sovrabbondante, con un sentimento d'amore profondo, i nostri cuori, le nostre vite. Grazie perché ci sei.